Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. I ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia hanno costruito un bracciale sonoro che aiuti i bambini non vedenti a orientarsi nello spazio, comprendendo la posizione del loro corpo e quello degli altri. Obiettivo Salute, Giulia Cappagli, psicologa neuroscienziata dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha seguito in prima persona gli esercizi riabilitativi con i bambini. Il braccialetto Abby è nato dall'idea che non esistono al momento strumenti tecnologici per il bambino non vedente. Quindi la maggior parte degli strumenti sviluppati finora è per adulti e in quanto tale è complesso e il bambino non vedente ha difficoltà a usarli. Quindi noi abbiamo pensato, insieme ai riabilitatori dell'Istituto Chiostone di Genova, di sviluppare un nuovo braccialetto e insieme un nuovo protocollo riabilitativo per far giocare i bambini non vedenti, e giocando i bambini imparano come sviluppare le loro capacità spaziali. Il bambino vedente sviluppa la percezione spaziale perché usa insieme vista e movimento. Dal momento che il bambino non vedente non può usare la vista ma ha un ottimo udito, noi abbiamo accoppiato udito e movimento. Quindi tutti i giochi sonori sono basati sul feedback che il bambino riceve dal proprio movimento, e questo ha permesso di sviluppare giochi che il bambino può giocare da solo o insieme ad altri bambini, sia vedenti che non vedenti, e questo è il principale punto di forza del nostro progetto. Per saperne di più sul progetto e sulle finalità del braccialetto sonoro potete ascoltare l'approfondimento sulle pagine di Obiettivo Salute. Se anche voi e i vostri bambini non riuscite a dire addio a questa tosse fastidiosa, conseguenza di un brutto raffreddore, non gettate la spugna, un aiuto arriva anche dalla natura. Obiettivo Salute, i consigli e i rimedi naturali per grandi e piccini del dottor Ciro Vestita, medico dietologo dell'Università di Pisa e autore di Sani e in forma ad ogni età. La più grande pediatria al mondo, che è la Pennsylvania State University, ha detto questo: in caso di tosse catarrale dei bambini, alla sera una tazza di latte, miele e salvia, e la tosse sta veramente meglio. Ci sono altre piante medicali ovviamente che possono affrontare questo problema, ad esempio la lavanda, il timo, e poi non dimentichiamo il fumacchio più famoso, che adesso sta ritornando di moda nelle pediatrie, che è l'inalazione di vapori di acqua e sale. Gli adulti la tosse è un pochino più seria. In ogni caso i presidi terapeutici, anche qui naturali, possono essere tanti. Bisogna usare piante un pochino più robuste. Quali sono? Ad esempio l'eucalipto, ma ce ne sono anche altre, la melissa, che è ricchissima di oli essenziali molto potenti nei confronti della tosse. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 come sempre prosegue con Melog, e io vi aspetto invece in diretta video. Oggi torniamo a parlare di fumo, in particolare di fumo nei locali, perché l'Austria sarebbe pronta a ritirare il divieto di fumo nei ristoranti. Voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo, leggeremo i vostri messaggi in diretta. Buona giornata da Nicoletta.